Fuose! Cioè, e cioè? Stai cioè, marciando? Cioè, sto facendo ginnastica, drago. Tu non la fai mai? Mai, mai. E si vede. Mai. Hop, cioè, faccio ginnastica per il cervello, cioè, no? Hop, cioè, hop, cioè, hop. Cioè, e questo è fare ginnastica, sei fermo e metti dei suoni, basta. Siamo alla radio, mica devi farlo vedere, ecco. Fai finta di fare esercizio. Anche voi che siete in ascolto di Chiedo Asilo, 16.45, un ottimo orario per fare un break e fare un po' di drags. Di? Non so, di stretch. Stretching. Ecco, fate così. Se voi mettete questi suoni, dimagrirete. Oh, 1.9 milioni di ascoltatori abbiamo, eh. Mamma mia. Io e te. Più noi. Schwetzma, Schwetzmo, Schwetzma. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago, qui all'asilo. L'asilo è un luogo spesso sottovalutato, Kappa. Noi non ce ne rendiamo conto, ma mai come oggi ci sono interessi milionari, anzi miliardari, sugli abitanti dell'asilo, cioè i bambini. Tu guarda Zuckerberg, no? Ma cosa devo guardare? Drago, la felpa col cappuccio, no, vabbè. Le ciabatte da doccia. Ma vabbè, ma subito quegli piccoli marchionne crescono, verrebbe da dire. Ma come, perché? Il fatto di sciatteria sono pari. No, dico, guarda Zuckerberg, felpa, non guardare la felpa. Guarda che casino deve fare adesso per garantire che i bambini che hanno un account Facebook siano tutelati in modo adeguato. Adesso c'è tutta una polemica. C'è qualcuno che ti fa scimmiotta, Drago, non so, non capisco. Ma vedi com'è qui, uno fa i discorsi seri. Ma che seri? E guarda cosa succede, vabbè, che c'è l'app che ti piglia per il culo, vabbè. Sì, Mario, basta. Ma io non capisco. Chi era che lo fa entrare questo qui? Chi è oltretutto? È un bambino Mario, abbandonato dai genitori. Ma è Mario. Ma sì, io no invece. Lui dice ciao Mario, io sono Mario. Ma perché ti confonde con Mario, Marco, vabbè, no? Invece vabbè. Vai. Dai, c'è tutta sta polemica adesso che dura ormai da tempo sui bambini e Facebook. Sì. E sembra che Zuckerberg voglia fare sul serio e collegare gli account dei minorenni a quelli dei genitori. Ah, e quindi il caso di una famiglia in cui i genitori non usano Facebook e il figlio sì, non è contemplato. Però esiste, Drago, scusa. Sì, infatti me lo chiedevo anch'io. Su 7 milioni e mezzo di under 13 che hanno un account Facebook, quanti saranno quelli i cui genitori non sono minimamente interessati ai social network? Noi diciamo che sono tanti. Vabbè, a quei genitori toccherà farsi un account. Allora vedi che è furbo Zuckerberg, perché così acquisisce milioni di nuovi clienti da spiare in tutte le loro mosse, perché è quello che succede, facendo passare l'operazione come una cosa degna di encomio. Ma come parli? Ma cos'è degna di encomio? Parlo italiano, è che non siamo più abituati. Vabbè, se vuoi riformulo la frase in modo più moderno. Zuckerberg avrà milioni di clienti in più da spiare e vorrà pure che gli diciamo bravo, che lo fa per i bambini, capito? Lo fa per i bambini. Ma infatti lui, Zuckerberg a me non piace. Se lo guardi bene in faccia sembra anche poco intelligente. Ma ancora sta cosa, ma sì, dai. Ma io sono lombrosiano, Drago. Se vedo Calderoli ad esempio non riesco a prenderlo sul serio. Vabbè, povero Calderoli. La sua fisionomica lo inchioda. Però non è sempre così, capa. Tu prendi proprio il cantante che ha divulgato il termine fisionomica, e parlo di Franco Battiato. Se tu lo vedi in faccia, non sai che è un grande della musica, la prima impressione che ti dà non è che sia, cioè, ti sembra Milito da vecchio. Chi? Diego Milito, capo, il centravanti fortissimo dell'Inter. Sì, fortissimo, fortissimo solo perché dell'Inter. Ma io sto con la Roma, mica con l'Inter. Ma non è vero. Stai zitto, che sennò poi sono guai coi gobbi. Con chi? Ma niente. Dicevo, non è che la faccia di una persona dica sempre delle cose vere su quella persona. Battiato non è bello. Non ha uno sguardo sveglio, anzi ha sempre quegli occhi a mezz'asta. Vabbè, ma è il suo afflato medio orientale, Drago, mica quello, devi giudicarlo con i nostri cani. Sarà. E poi il naso, cioè voglio dire, va bene che un naso importante tipo il mio, appunto, ecco, rende interessante un uomo, ma lui è davvero un super dotato in quel senso. Non so se Lombroso dicesse che i nasoni sono dei geni. Nel caso di Gaber e Battiato sì. E nel caso di Pippo Franco? Ma cosa c'è adesso, ma Tito? Ma perché esce sempre dal seminato, si parlava di Zuckerberg, sì. Siamo arrivati all'analisi fisionomica del maestro Battiato, che tra l'altro salutiamo. Ciao Franco. Allora, di cosa dobbiamo parlare? Di Facebook e dei bambini. Allora, vorresti che tua figlia avesse un profilo su Facebook? No, ma forse ce l'ha già. Ecco, vedi, succedono queste cose. Vabbè, ma mi hanno detto che perfino Tito ha la sua pagina. Ecco, ma chi è che gliel'ha aperta? Mia figlia. Allora, credo. Qui è proprio un caso assurdo. Un caso come quello di Tito Zuckerberg forse non l'ha mai calcolato. Tito Zuckerberg? Eh sì. Cioè Tito si chiama, cioè Zuckerberg si chiama anche Tito, il secondo nome Tito. No, allora vedrai che la prossima menata sarà sugli account degli animali. Già mi immagino gli animalisti che insorgono. Ma per cosa? Per la violazione della privacy degli animali. Forse che il gatto Scarabocchio ha autorizzato la pubblicazione delle sue foto. E che dire della bulldog Crudelia e della bulldog queste... Che bulldog o bulldog, non lo so. Ma non potrebbero far prima chiudere Facebook? In che senso chiudere Facebook? Chiuderlo, zerano tutto, tornano, si torna come si viveva prima. Ma chiuderlo, azzeriamo tutto e torniamo a vivere come si viveva prima. Sì. Ma magari sì, poi finirà così, perché quando Facebook e il mondo saranno la stessa cosa, chiudendo Facebook il mondo finirà. Eh sì, è così che finisce il mondo. Non con uno schianto, ma con un error 404. Io penso che viviamo una regressione. Una regressione culturale, una regressione civile, una regressione morale e anche una regressione politica. Chiedo asilo! K, qui a Chiedo Asilo dobbiamo concentrarci un po' di più sui programmi televisivi del pomeriggio. Vabbè, perché è lì che si annida l'infantilismo, sì, capito? Allora cosa facciamo? Bisogna conoscerli, no? I programmi, sì, io non so, c'è la vita in diretta, Drago, quella roba lì. Per guardarli bisognerebbe essere in casa di pomeriggio con la febbre a 40. Vabbè, anche capito? Senza febbre. Se no è impossibile. Eppure sai che esiste un grande pubblico che guarda questi programmi, che cominciano intorno alle 14, credo, e si trascinano poi fino quasi alla fine del pomeriggio. Ma ci sono, certo, sono le persone anziane, gli studenti svogliati e le casalinghe disperate con le vene, mica quelle dei telefilm. Vabbè, questi sono contenitori tipo Domenica In alla fine, solo che ci sono tutti i giorni. Giovedì e quindi devono fare tutti i giorni qualcosa, inventarsi Martedì. Qualche argomento. A volte mi succede di captare qualche stralcio così di queste trasmissioni ed è incredibile come qualsiasi argomento, anche serio, che arriva in quelle trasmissioni diventi subito chiacchiera da sala d'attesa. Cioè il terremoto, l'aborto, le malattie incurabili, qualsiasi tema viene banalizzato e di solito vengono create due schiere di ospiti che la pensano diversamente, che devono discutere o litigare a seconda di come va il pomeriggio. Capito? Le poche volte che io ho visto un programma del pomeriggio ho sempre visto Meluzzi. Meluzzi, è certo. Presente quello psicologo che una volta era in Forza Italia? Lui, diciamo che c'è sempre, soprattutto se si parla di religione, lui c'è sempre perché mi sembra che si sia convertito dopo una vita da laico, libertario, libertino. Si è convertito come Brosio. Sì, però Meluzzi non ha visto la Madonna. Perché Brosio sì. Mi sembra di sì, dice così. L'importante è che la Madonna non abbia visto Brosio, sennò poverina anche lei. Hai capito qua? Questo è Brosio o Meluzzi? Non so. Ma sai che Meluzzi io per un certo periodo lo confondevo con Sansonetti. Non è giuro. Possibile. Sì. È un po' effettivamente. Quando mi hai detto lo confondevo, subito ho pensato a Sansonetti. Ma vedi, perché è vero. Ma Sansonetti ormai è cominciato a far parte della nostra squadra qui. Sì, Sansonetti. Ti vogliamo bene. Anzi, anche quasi quasi un giorno lo chiamerai pure al telefono. Matitone Sansonetti. Poi gli spieghiamo perché Matitone. Salutiamolo. Salutiamo. Ciao, Ciao diavolo e Fiori e Gesù. E anche, non so, Mao Zedong. Certo. Cos'è questo? Come cos'è? È il break che da 35 anni c'è a Radio Popolare. Ah, è così? Popolare Network. Come? E c'è ma non il sax, possiamo fare lo stacco, poi la gente crede di aver sbagliato canale. Così facciamo una specie di omaggio. Si confonde in maniera mimetica con lo stacco. Vedi, mettono vai, Black vai. Market e fanno il GR da 35 anni. Ecco, poi? E poi c'è, mi pare, il microfono aperto con The Chicken, sempre di Giacomo Pastore, da 35 anni. Senti, però tu stai ascoltando. Cioè, è vero, non siamo solo 24, Drago.